faceva il pipì corto. Bello è. Bello è. Lo puoi regolare come vuoi. Ma sono un po' una radio, una tariffa un po' forte, abbassati. Così bene va. A metà o troppo forte. La radio allucinante. Tu che vuoi sembra? No, l'MB4 è questo. Ehi, la radio un cable ti sembra? Ma io non mi sono ascoltato, quindi non lo posso. Ed è a metà, mi. Tu fidati di me, non è di cuballi io. Io non ti sto dicendo che di cibale, che arrivi alla potenza del Kimball, la voce. È un bel forte, è un bel completo, bella, un bel forte Natale, fidati, un bel forte. Questo è il vecchio, quello che avevo prima, l'MB4, gli ho tolto anche la modifica e quindi regola di più. Se tu gli fai la modifica regola di meno il potenziometro. Ma aspetta, io sto per passare per la legge e scrivere, aspetta. Ah, puoi mandare la registrazione su WhatsApp. Aspetta, passa giù lungo 10 secondi, vai, ti registro. E dimmi quando sei pronto tu, che così parlo. Vai, te l'ho fatto già una, vai, continua. Cara gara, mi ascolti Lugariello, cara gara. Però dovresti abbassare un po' la televisione, ti porti un bel di roba, un bel di cose dentro casa. Lo so, Conce, spegni la televisione. Abbassa che sto facendo delle prove. Se non si sente tutto, che tocca abbassare il microfono, se no. No, non è quello. Così. No, c'è preato. Perché è quello lì. Boia. Bene va, guarda un po'. Troppo televisore Natale. Guarda, adesso non ce n'è televisore. Guarda un po', 1, 2, 3. Non c'è, si sente. Comunque ti ho mandato la registrazione, ascoltati. Tutti i giorni non c'è il telefono, eccolo qua. Buongiorno Luca. Chi è? Buongiorno. Franco da Sosa. Mi superano la propagazione. Non so, sì, ti arrivi basso qua, Esci a vedere, mi ascolti adesso? Prova. Cappa, vieni a vedere adesso se mi ascolti. Esci Franco. Cappa. Vabbè, è riconoscibile, sì, Franco. La stai usando? Sto usando l'FM 548. Ho capito, te li ascolto adesso. Io mi sto aiutando perché questo esce con 2 watt. Va, ti ascolto adesso, fra. Ho sentito Natalino che sta uscendo più forte, come mai? Cosa più forte? Il microfono è che ho messo mano, un MB4 questo è. Aspetta fra, guarda un po' come ti sto arrivando io a te lì. Vabbè, questo non lo devo tenere conto perché aspetta che aggancio l'altra radio, perché questa non, come segnale non è buona. A livello di quella di Franco o Luca? Non è forte l'altro Natale, vabbè, forse perché siamo vicini. Quella di Franco è un'altra timbrica, un'altra emissione di radio, c'ha là. Ma l'amplificazione si sente come quella di Franco? No, la tua è più spinta Natale. La mia è più spinta. C'è qualcuno su 10 che mi conferma? Adesso mi ascolti bene, mi ascolti? Basso sì, da me fra, segnale 5, ma ti comprano la propagazione. Capo dai, lascialo scaldare, poi vedrai. Niente. Natalì, se io sto guardando. quasi 8, sì, è radio 5, bella. La radio è bella, dai, volevo sapere solo quello, se era bella la radio. Sì, sì, in confronto a come eri prima, migliorata al 100%. Ok, dai. Allora, aspetta un attimo, come ti arrivo adesso il segnale? E adesso eri 5 modulati a 6 quasi, dai. E K, va bene, dai, volevo sapere quello. Dice che è molto spinta la radio, Luca. Oh, già siamo vicini, con Luca, ma vedi che pare un Kenwood. K, no, no, è bella, veramente bella la modulazione. Sì, sta spingendo quel microfono, che l'MV4 sta andando. Ed è bella la modulazione, mi piace. Gli ho messo mano praticamente, là. Tutto bello imbottito di cotone, tutto. Solo che amplifica troppo, si sente anche la televisione, anche quando è a minimo, che la sento bassa, che io non la capisco. Gli altri la sentono. Vabbè, quello è l'amplificazione del microfono, che raccoglie un po' di roba in giro. Un po' di mondezza, diciamo così, là. No, già va bene, dai, già va benissimo. Qual è la differenza dalla mia alla sua, Fra? Io sono a minimo, è lo stesso, a 5 ce l'ho, Vai, Fra. Vabbè, tu c'hai la modulazione più squillante, più alta di lui. Il segnale è 7 per il tuo. Se lui attacca arriva più forte anche di te. Sì, non ne ho niente da attaccare, no, è la radio, Fra. È la radio così, non c'ho nulla da attaccare. Posso confermare. Poi un giorno che viene Luca gli faccio vedere la situazione. Non ho niente da attaccare. Sono i watt della radio. Cappa, sono buoni allora, perché aspetta, da 5 sale sino quasi a 8. Infatti. Avanti, Luca. Ehi, cazzo, devo andare a fare un lavoretto vicino a casa. No, signori, devo smontare un letto, là. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Più minuti. Giovanotto sarai tu, e anche Pocomane. Parati come sei vecchio. Io lo voglio. E Pocomane. Ma tu sei Pocomane però. Luca, guarda che veramente ha 62 anni. Dopo 50 anni il giornale non funziona più. Sentite cosa ha detto questa qui. Non ho capito, il giornale non funziona più. E ha detto che dopo gli anta qualcosa si incanta. Ah, avevo ragione. Stai iniziando a incantarsi a me. Siti tutti da te, qua. Lasciamo perdere, che è meglio. Sì, la stai aiutando, si incanta, fidati, ciao. La sentiamo dopo. Ciao, ciao, Luca. Vedete, devo dire, è una data da truppo. Vabbè, ma non ci scherza, drammatizziamo così, perché ultimamente, non voglio essere polemico, ma ultimamente sento solo prove contro prove, cioè a 27, ma è passato in diagonale di tutto, vi credi? Prove, io non sento altro che prove contro prove, prova microfono, prova l'archino, prova Guido, come arrivo, come non arrivo, e così va bene, un casino, per carità. Io sono sincero, sono schietto, No, niente contro nessuno, però ultimamente sento solo prove contro prove. Sì, se c'è ragione, la verità si dica, anch'io sento tutte queste prove. Vabbè, io è perché sto facendo questo apparecchio là, ma gli altri esagerano. Tali, non è fare radio quello, cioè prove con vostro papà, capisco che lo sto facendo male, aiutiamolo a regolare la radio, vabbè, ma è una santa di ogni santa di ogni santo giorno, cioè ci esce bene, siamo tutti vicini, cosa provi, quanto prove, capisco che uno si è aperto un'antenna, va bene, ci sta, ci fa una prova, da me arrivi 9, da quello arrivi 5, da quello arrivi 7, ma ogni santa lì, è ogni santo giorno provo, io infatti molte volte non metto, perché mi rimasta la gana, sento solo così, solo questo prove, prova, prova, microfono, prova, guido, prova, banchino, che cazzo, buh, avanti fra. Non ti arrabbiare, fregatene, fregatene Luca, la gente gli piace la potenza. No, non mi sto arrabbiando, fra i che si vanno più baghito, no, era giusto per, insomma, facciamo radio, parliamo di qualsiasi cosa, provo sempre, prove, prove, prove, infatti io non so quando è così, ma poi ci entro. Cazzo, vabbè, basta ascoltare. E naturalmente che provano radio nuove, queste cose qua, microfoni e queste cose le devono provare anche. Però diciamo che a volte giocano sulla potenza. Ma ogni santo giorno questa storia là, fra. A me una volta ogni tanto un questo normale, si parla di quello che si può parlare. Un avviso, vabbè là. Vado a farmi questo lavoretto, ci sentiamo dopo. Ciao Luca, vai, buon tutto, alle prossime. Va bene a scherzare, a fare come faccio io. Io non scherzo con Riccardino sempre, è poco si incavola quando gli dico che è col tuo, ma io lo provoco apposta, ma è subito ti risponde quel ragazzo. Vabbè, sotto la concetta, concetta, ciao! Non c'è, è in cucina. Vabbè, ciao. Ciao Luca. Ciao, ciao Luca. Che è che mi chiama? Avanti. Propagazione, Lu. Oh, sei detto Luca, vabbè. Eia, propagazione, non è niente, dai, fregatelo. Prendilo tu, Vattari. Dimmi, tra. Franco! Ehi, dimmi Natali! Mi stavi chiamando, cosa volete? Ho detto che c'era uno che stava chiamando a Luca da fuori, dalla Spagna. Già l'ho sentito. È che c'era la 50 che mi stava dicendo cose e non ho prestato a quello che stavi dicendo tu, non ho prestato attenzione. Va bene, dai Natali, ci sentiamo. Ciao Bra, oggi forse deve venire Marco, il tuo ex collega. Cappa, salutamelo quando lo vedi. E se ho tempo, dai, lo chiamo. Ok Bra, già glielo dico. Ci sentiamo alle prossime, ciao. Cappa, ciao, ciao. Chi sei Natali? Dimmi Luca. Dimmi Luca. Fa un quarto d'ora devo andare. È ancora drumita. Infatti, troppo pulito. Io manco Lugani, sono andato a puttare. No, come mai? Perché stavo guardando roba al computer, mi stavo guardando la posta e altra roba e allora non l'ho ancora portato, ma non c'è problema. E ho capito, aggiungami. Sgridando si sta, mamma mia, perché non hai mangiato la minestra. Anche adesso i cani stanno a mangiare, infatti lui l'avevo riuscito, ha detto mangiato, ora se vedi, se vuoi sci, aspetta. Un po' più veloce, un po' più veloce così. vado a portare il cane, riprendo subito, mi. Quando salgo. Via. Thank you. provo a vedere che cosa vuoi sapere, che controllo vuoi sapere. Il segnale, allora ti devo accendere l'altro apparecchio, perché questo qua, questo apparecchio qua non dà segnali giusti, dai, allo speaker che è un po' a conto il suo. Accendo l'altro, dai, comunque mi interessava la radio se andava bene. Buona, buona, presente. Natalino, ciao, buongiorno. Adesso per il controllo ti accendo l'altro apparato, dai. Angelino, mi ascolti lì ad Alghero? Natalino Alfa 1 da questa parte, dai. Volevo sapere se mi ascoltavi. Bassino, bassino, però la colpa è mia, La colpa è mia che ho l'antenna bassa e non imbatte. Il giorno che mi decido a tirarla su, perché qua è un macello, vedrai che già ti ricevo bene, Angeli. Mi dispiace che ti ricevo così adesso. Prova, Angelo. Sono col Galaxy, non sono con l'altro. ma anche l'altro so che arriva bene perché mi sono ascoltato e mi hanno mandato registrazioni e cose, va molto bene, dai. Va bene, sì, se te l'ho detto io, come ti ho sentito, magari c'ha la M chiusa, se tu vuoi che amplifichi di più devi aprire quella. Non lo tocco, lo lascio così. Perché esce forte ugualmente, c'è il collo di bottiglia perché c'è, però la radio esce chiara chiara, è forte tra l'altro. La mia come la radio già? Gianni, ci sei? Guarda lui che te l'ho mandata. Vabbè, cos'è? Hai fatto un collegamento? Ho fatto il collegamento con media, c'è scritto tutto, guarda. Sì, ho visto. Tocco. Me l'hanno mandata via email, capito? Elettronica. Di lusso, va bene. Gianni se ne è andato, devo dire che la radio usciva, che io l'ho sentito e usciva bene. E magari che c'era da aprire la M, capito? Perché c'è il conto di bottiglia e non amplifica come deve amplificare. Però la radio è forte e ciara. Policlinico Sastarese di Venta, no al Covid-19. Cosa? Avete fatto in due cosa, Gianni? Quindi quando passa il virus lo chiudono? No, Covid vuol dire che non ci sono più contagi? No, assolutamente. No, fine dell'emergenza. Il Policlinico Sastarese di Venta, no Covid. Covid, io ho capito Covid-19 e cazzo, sarà che andavo a finire l'emergenza e andare in ospedale. No. Alleluia, speriamo bene. Riuscirci veramente, qua è possibile, che non si ribue. Io ieri sono uscito e cavolo, come si dice? Sono uscito per ho già fatto una passeggiata, ma stai con la mascherina, non c'è di palle, tutti con la mascherina. Ma devono essere così, mica io ho visto nella piazzetta vicino a casa di Gianni, tramite un amico, un assembramento tremendo. Cazzo, guarda, c'era da chiamarli i carabinieri a quelli lì. Peghino vandani per farli disperdere. Se non stiamo attenti e iniziano attorno ai contagi, chiudono tutto, tutto peggio di prima. E cosa vuoi ti dica? Ragazzi, vi saluto che mi alzo, vado a fare il bucato. Ciao! Hai fatto tosco di fare poco male. Allora, cappa. Adesso che attacco quello là, voglio vedere come mi ascoltate. Ah, Natali, il bucato deve fare, il tossico deve fare, qua male. Sino quando provocheggia Riccardino, Luca, quando lo provoco, subito di rispondere a prima, immediato. Ma vado di qua ma ne sei tu, ma di storia. Beato Gianni che non ne ha con quell'antenna. Angelino lui lo riceve bene perché c'ha meno QRM di me. Io proprio non ne ho niente QRM. Ma io faccio un bel di QRM, visto che conta l'antenna. Ascolta, guarda a vedere la radio, Luca, come sta uscendo? Perché c'è chi dice che non è bella la radio, c'è chi dice che è bella. Voglio controllare anche da voi, dai. Ti ascolto benissimo già, bella, bella. Ma quindi non c'è bisogno di toccarlo, io non voglio toccare l'apparecchio, dai, dico la verità, è meglio lasciarlo originale. Ma questo qua cos'è? 3009? Questo è il 3009. Lasciamo così, va, che una bellezza. E allora non lo tocco, dai. Ma il microfono sta andando bene, sì. E via, adesso qua lo metto al massimo. così al massimo, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sta sempre andando bene. Sì, non c'è bisogno già, cosa metti al massimo, guarda, mettiamo come era prima. Comunque quel capo là l'ho salvato già, tagliando un bel pezzo di filo, l'ho salvato, dai. Lo uso magari quando mi serve. Hanno preso, cioè, erano ossidati. Sicuramente, perché quando io l'ho tolto andava, capito? Se no non l'avevo messo da parte, non era quello il problema, era un altro, e quindi l'ho messo da parte, già lo sai, quando io smonto e faccio, rimetto sempre quei cavi che mi piacciono un bel. Io l'avrei usato anche il microfono normale qua, ma c'ha il capo duro, e di quelli col capo duro ho lui, e quello del 2009 ha il capo duro. Luca, non è che c'è il capo schermato, no, per questo microfono? Che mi fischia quando lo metto a manetta. Cioè mi fischia appena appena, mi fa un innesco. Ma è il capo che non serve, questo. Ma il capo, quello dello spinotto, dici? E il capo schermato, per microfoni. Cazzando un ritiro un reddito, dici che rubo nei miei oggi. Andemi rubiglio. Io metto capo schermato e vedrai come pompa questo microfono. Guarda, nel caldo sta? Stai nel caldo? No, adesso no. Ma anche a me lo fa. No, io capo schermato, in realtà. C'è un capo lavato Gianni, questo qua mi pare, poi c'è a vedere. Sì, capo lavato Gianni, avevo messo nell'MB+4, quello morbido. Ho capito, questo qui è un capo del cavolo proprio, non è neanche il suo originale, è quello vecchio, questo microfono. Tanto io guarda che lo diamo nel porto, dai, che sta per arrivare alla 25, un attimo che mi ci sto un po' di roba. Cava cava. Quindi Natali, va bene così, dai, lo lascio così, non lo aumento, dai, cioè va bene così, lo lascio così. Se vuoi ti registro e ti faccio sentire dal vero. Cazzo, ma quando mai io ti dico che anda beh. Se tu lo vuoi che pompi di più, che amplifichi di più per quando fai i collegamenti, devi fare quel lavoretto che ti ho detto io. E boh, e non devi fare altro, perché va benissimo. Sì, vabbè. Oh yeah, vabbè. Cava cava. Adesso chiudo, dai, che sono andato a fare roba. Ci sentiamo, buona giornata. Se vuoi ti presto quel cancellatore che c'ho io, mi così lo fai bene il bucato. C'ho le punte video pure. No, c'ho la siringa, ciao. Con comane. Hola, c'è qualcuno su 10? Attento canale 10, attento 10. Roberto. Chi c'è, Angelino? No, buongiorno Roberto. Sì, visto che sei all'Alghero volevo fare una prova. Io adesso sto uscendo con la Mantova. Mi guarda bene questo rapporto di segnale? Ok, adesso io provo a cambiare l'antenna e mi dici se cambia molto il segnale. Sto usando una multibanda adesso, ti dico il passaggio un attimo. Adesso Angeli, guarda questo segnale, questa è una multibanda. Questo spazio il segnale, ma di poco, è anche appena la radio si è fatta, ma di tutto poco. Però quella di prima è molto più forte. Ok, ti ripresenti, questa è un'antenna 030 multibanda, adesso l'abbiamo venuto Claudio poco fa, l'abbiamo tirata su perché era solo appoggiata, c'era una stazionaria molto, molto alta, adesso invece senza accordare niente sono 1,4 di stazionaria, 1,3 anzi, posso anche accordare ma lascio così, non c'è bisogno, comunque sta irradiando l'antenna. Allora, con questa sei Santiago Novo, per questa antenna, adesso chiamo, cambio l'altra e vediamo quanto so. Prova a parlare. Allora, con questa sali a 9 più 5, diciamo c'è poca differenza, nel senso di antenne ho pensato peggio, dai, sta andando alla grande, perché nelle HF guadagno tantissimo, mentre 27 pensavo prima quando era appoggiata perdevo tanto, tanto di segnale, invece adesso è quasi uguale, perdo da 9 a 9,5 dai, rispetto al segnale tuo. Così invece arrivo a 9,10, quanto mi sta dicendo questo segnale? No, ottima, perfetta, radio 5, perfetta, pulita, che cosa stai utilizzando? Sto utilizzando alla grande, pulita, chiara, segnale forte, considerando che oggi c'è tanta propagazione, cioè tu la scavalchi alla grande perché c'è la propagazione a 9, ci sono degli spagnoli che arrivano a 9 e tu ti schiacci. No, ti ascolto benissimo, non so se vuoi provare ad alzare, puoi essere al massimo come volume del microfono. No, sono a 4. Prova solo per curiosità a sollevare un po', vai a 3 quarti. Ma lo porto a 8, dai. Prova a parlare. Prova, no, non è cambiato niente, mettilo al massimo, a vedere. No, da parte mia non cambia quasi niente, è proprio impercettibile la variazione. Mentre l'apparato tutto al massimo c'hai? Sì, diciamo che la no, diciamo io sono un po' lontano, non so se poi magari sei troppo amplificato per quelli che sono vicino a te, però io ti ascolto perfettamente, la radio è super 5, pulita, perfetta. E i problemi sono scomparsi, quelli che mi avevi accennato per telefono l'altro giorno. Sì, era grande, era grande. E addirittura qua stazionario non ho neanche uno attaccato. Ma tu adesso sei liscio o aiutato? No, adesso sto bellissimo, però mi hai approvato. Prova a fare la differenza. 6 a 8, passi da 9,5 a 8 con il corso, però la radio un pochettino peggiora perché c'è QRM alto oggi. No, ti tiro fuori sempre bene, nessun problema. Ti metti attaccato adesso? No, oh, non ti mangia neanche la radio perché qualcuno ha avuto problemi recentemente, come attaccava, saturava, eccetera, eccetera. Che cos'è il giocattolino dopo la radio? Foni? Ah, ma è a valvola transistor? No, va benissimo, pulito, non lo conosco come coso. Cosa volevo dire altro? C'è qualche altro? Aspetta, facciamo un attimo di bianco sul canale 10, se qualcuno vuole entrare. Sono contento per l'antenna, dai, non me l'aspettavo che ci avesse una resa, perché l'altro giorno mancava un radiale, era appoggiato il piantone sul palo perché non potevo metterlo. Adesso con Claudio l'abbiamo sollevato completamente alla fine del palo, in modo che i radialini superano il palo e l'antenna sta irradiando. Sono veramente contento. Non vedo grandissime differenze, me lo stai confermando anche tu, perdo 5 punti, così mi ha detto di segnare. Ok, una domanda che non conosco, l'irradiazione della zona di Alghero verso Palmadula, Argentiera, sei aperto tu o c'è difficoltà? No, io da qua sono completamente aperto, perché anche perché credo che tu arrivi molto forte. No, volevo capire com'è la radiazione dalla zona di Alghero verso Palmadula e Coso e la gente, perché dopo c'è Riccardino, deve andare, non adesso, più tardi va verso Coso, verso la Gentiera, perché devono andare col camper eccetera. Dice, gli unici che ascoltava eravamo io e Claudio, non ascoltava nessun altro dopo un certo punto, dice, perché si perdevano tutti, arrivavamo solo io e Claudio. Volevo capire se Alghero era aperto, ma mi confermi che arrivi anche ad Alghero è aperto per quella zona? Sì, vabbè, ma lui non c'era, è per questo che non l'avrei sentito. Infatti volevo vedere la prova. Ciao Riccardino, ascolti bene adesso Riccardo a Angelino d'Alghero. Sì, va benissimo, non avevo mai sentito così forte. Che rapporto gli dai, così vediamo come rendono le antenne. Vada. Hola, Riccardino, buongiorno, benvenuto. Io sono grande. Buongiorno, sì, mi arrivi il 95 e la radio è 5. Quindi Riccardi stai andando forte anche ad Alghero, lo vedi, ottimo. Come ti arriva invece Riccardino? No, lui ti ha dato un rapporto 9,5, tu quanto ti arriva a te Riccardino? Più o meno circa 9,5. Sì, positivo, ti sento. Ha messo la mantova lui. Riccardi, dammi un rapporto con questa antenna, adesso è un'altra antenna questa, guarda se ho perso molto di segnale. 9,30, comunque, no, aspetta, 9,30 con l'altra, ho sbagliato, 9,30 con l'altra, con la mantova e con la multibanda stai andando 9,20. Ok, quindi va bene anche dalle tue parti. Adesso commuto l'altra antenna, questa è la mantova. 1, 2, 3, prova radio. Sì, come ha detto 9,30. Ok, allora Riccardino ha fatto un bel lavoro, ha messo la mantova sul palo di 6 metri, c'ha un'ottima posizione lui, per Alghero è molto aperto, purtroppo per certe altre zone di stanza rimari, se fosse stato in cima alla sua proprietà arrivava, sfasciava tutti, però sta uscendo con un baracchino. Quando attacca l'altro giocattolino, l'altro giorno ha fatto danno, era il segnale più forte qua in città, di tutti quelli che riceveva, a parte quelli che ci ha attaccati, Claudio eccetera, però di tutti gli altri segnali è il più forte in assoluto. Ok, sono contento, ha fatto un bel lavoro Riccardino, alla grande. Vai di nuovo Angeli, riprenditi il mic. Ecco. K7351 Gulliver da Lecce, Racale Lecce, avanti. Gulliver da dove? Provincia di Lecce, Racale, Puglia. Ah, ciao, ben sentito, pensavo fosse una modulazione qua locale. Comunque il segnale tuo è molto forte, sei 9 più 15 qua, operatore Roberto, città di Sassari, nord della Sardegna, in compagnia mia, di Riccardo, il più giovane della frequenza, e di Alghero Angelino. Ti rilancio il più lontano, Angelino, se ti ha ascoltato, avanti Angelino, per l'amico, cosa ha detto, non mi ricordo il nome, ripeti il tuo nominativo. Gulliver, Gulliver di Rata e Lecce. Ok, vai Angelino per Gulliver da Lecce. Roger, se ti fai anche dal tuo amico, il QRZ non l'ho ascoltato. Tanti cari saluti agli amici di Sassari e anche a quelli di Oristano, che sto anche nel loro club. A te e al loro amico di Sassari con le super cordialità K. Ti rilancio Riccardino, il più giovane della frequenza. Avanti Riccardo, se hai ascoltato l'amico Gulliver dalla provincia di Lecce. Ciao Gulliver, ben ascoltato, qui Alfa 21, operatore Riccardo. Regista di break, ciao Riccardo, se ti fai anche se mi ascolto tutti bene sull'ordine dell'8 7. Avanti break. Confermo Cagliari, avanti. Confermo. Siamo in famiglia allora, 7-3, sì. Sono a un chilometro da Liste e a circa 10 da Gallipoli. Riccardino, a te il cambio. Ok, grazie. Monte Gulliver, come ho detto, ben ascoltato, non ho seguito l'ultimo passaggio che mi sono fatto allontanato, sono qui, stavo sistemando la mia postazione, se qualcuno mi può ripetere che cosa ha detto. Non ho capito però l'amico, il tuo collega della tua zona è Gulliver, l'amico che parlava, non ho capito la, il suo QTA. No, è di Cagliari, sta trasmettendo da Cagliari, eh? A te? Ah, era Sandro, scusa, non avevo capito. Ci puoi dare le tue condizioni di trasmissione, Gulliver, che antenna, che apparato e che microfoni hai, naturalmente, se vuoi dire anche la potenza, se, se lo vuoi dire, dai. Cappa, sto trasmettendo con un Elbex 4082, con un microfono e un SBE da tavolo. Cappa, allora, rilancio l'amico di Cagliari, un attimo soltanto di spazio, forse gli è stato un break, avanti amico di Cagliari, negativo, avanti Cagliari. Cagliari, sei sicuro che Cagliari non Alghero, perché c'era Sandro d'Alghero. Confermo, scusi, Alghero, è vero, Alghero. K al 100%. Ti ringrazio per il segnale e un caro saluto al tuo nonno di, del mio QTH, che piacere. Bene, allora innanzi l'amico di Sassari, con il cuore vuoto, non l'ho registrato ancora, avanti Sassari. Sì, Roberto, qua operatore Roberto, città di Sassari, le mie condizioni di trasmissione sono un'antenna Mantova 1, un apparato della Kenwood, un K44 e una microfoniera della T60, MC60 della Kenwood. Se mi vuoi dare un rapporto di radio di segnale, il tuo rapporto è 5, 9 più 15. Okay.